Adesso lo sappiamo. Come Together. Una cover di dubbio gusto. Ma dubbio gusto. Che io leggerò chiaramente perché la mia memoria è una merda. Beh. Non so.